Ma oggi è una giornata storica per le donne, perché dopo decenni di promesse a vuoto e di tentativi falliti di autoregolamentazione, le donne soltanto rappresentano il 14% dei membri del consiglio di amministrazione. È veramente uno spreco di talenti socianti se si pensa che il 60% dei laureati sono donne. E per questo oggi la Commissione europea presenta la normativa UE per abbattere questa barriera che esclude le donne dai migliori posti di lavoro. Entro 2020 le donne rappresenteranno 40% dei consigli di amministrazione. Commissario Reding, è oggi più felice in quanto politico o in quanto donna europea? Intanto di politico e di donna, perché abbiamo aspettato decenni di anni per avere un testo che dà una capacità alle donne di introdurre la loro capacità intellettuale e di lavoratrice all'alto livello. Dunque è un gran momento per la politica e per le donne, perché non è normale che tutto questo talento non sia utilizzato nella vita economica. E grazie per aver risposto in lingua italiana.